Quis mi voto deboro, mi pare non proco mi deco, ma mi deco baca. Quis mi se che pudete mi di don tapna peti mi deco ma mi deco baca. Quis mi uma no vani mi ati ne bron, mi deco ma mi deco baca. Ala mi mat con yere wantore, bakra o madron juka uma. Ate ken pa nyi kon na liba, ase ken bakatu. Betu ma di do so langa langa, betu ma di do so tibet tibet. Betu ma di do so langa langa, betu ma di do so tibet tibet. Do my thing, do my thing, do my thing, do my thing.